e all'inmila e lì gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Dai che alle 7:19 minuti siamo qui, siamo pronti a leggere, appunto, come mi invita questo caldamente questo ascoltatore, a leggere i giornali. Siamo qui con tutti i quotidiani pronti, caro Peter Bescapè, questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Andiamo, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Mercoledì 23 di novembre. I titoli intanto, l'apertura del Sole 24 Ore, borse in rialzo, faro sull'OPEC, Dow Jones oltre 19.000 punti, i nuovi record per Wall Street. E poi gli altri quotidiani quasi tutti aprono sul referendum. Qui un consiglio spassionato che non verrà ascoltato assolutamente da tutti i direttori di giornali: da qui al 4 dicembre cambiate un po', perché sennò ogni giorno è una pena che ci portiamo fino all'ultimo giorno, cioè il 4, appunto. Comunque, Corriere della Sera, voto all'estero, il fronte del no pronto al ricorso. Repubblica, voto all'estero, il no minaccia ricorsi. Berlusconi, Mediaset teme ritorsioni. La Stampa, referendum, lite sui voti all'estero. Il Manifesto mette la foto di Briatore che ha votato filmandosi mentre vota per il sì, voto palese. Il Messaggero, insulti e veleni sul referendum. Il Fatto Quotidiano, molestie postali, il PD impone ai suoi sindaci di spedire milioni di lettere pro sì calpestando la legge. L'Unità invece, l'accozzaglia è completa, anche Berlusconi in campo per il no. Va bene, Libero e Il Giornale invece se la prendono con gli immigrati. Libero, rivolta contro i profughi, mentre Il Giornale, più immigrati uguale più crimini, c'è la prova. È uno studio di Confcommercio che dimostra la relazione. Tra l'altro noi proprio oggi parleremo di questo studio Confcommercio, legato non tanto alla criminalità e agli immigrati, agli aspetti appunto di come i commercianti percepiscono la sicurezza. Vedremo davvero se è così anche legata all'immigrazione. Ma l'apertura di Avvenire, l'apertura da cui voglio iniziare, sprazzi di sereno. Oh, ecco, mi ha colpito anche a me quando ho letto questa notizia dell'Istat ieri. Ho detto, oh, in realtà, come ho detto, ho spaccato una tastiera del computer quando l'ho letta. Ma l'Istat ha certificato che ora gli italiani si sentono più soddisfatti. Oh, non vi sentite più sereni? Come titolo Avvenire, sprazzi di sereno. Per la verità a Milano piove da 15 giorni ininterrottamente, ma lasciate stare queste cose, guardate la serenità interiore. Per la prima volta dal 2011 certifica l'Istat, migliora il giudizio delle famiglie sulla propria vita. Per carità, i titoli ci sono ovunque. Guarda qua, Istat, la sorpresa 2016, gli italiani sono più felici, non succedeva da 5 anni, è il titolo del Messaggero. Sorpresa, gli italiani tornano felici, è il titolo della Stampa. L'ottimismo degli italiani è il titolo del Corriere della Sera a pagina 19. E per carità, le rilevazioni dell'Istat sono statisticamente molto attendibili. Ma, come dire, effettivamente il sociologo Domenico De Masi sul Corriere della Sera, intervistato da Enrico Marro, pone il dito su qualche piccola stortura di questo tipo di ricerche. Cosa non la convince, chiede Enrico Marro al sociologo De Masi, ma un conto è esaminare indicatori oggettivi tipo il patrimonio, il reddito, ma anche quante volte sei andato al cinema, quanti giorni sei stato in vacanza. Ma una cosa diversa è la percezione di soddisfazione o insoddisfazione soggettiva, che può essere influenzata da mille fattori. Che ne so, uno è momentaneamente infelice per motivi sentimentali o di salute, o viceversa. Magari il giorno prima dell'intervista la sua squadra del cuore ha vinto e lui è contentissimo. Insomma, la sensazione di benessere ha poco valore rispetto agli indicatori oggettivi e non gli darei tutta questa importanza, tanto più che siamo a ridosso del referendum ed è facilmente qualcuno può attribuirsi il merito di questo presunto miglioramento. E Poi, dice De Masi, poi guardo al fatto che i poveri sono raddoppiati, il livello di disoccupazione, i giovani istruiti che non trovano lavoro. Spiego tutto comunque con l'assuefazione al peggioramento. Ci si abitua al crescere dell'insicurezza. In sociologia usiamo una parola, alienazione, per descrivere lo stato in cui si sta oggettivamente peggio, ma non lo si avverte. È uno stato pericoloso anche psicologicamente, perché si abbassano le difese e la capacità di conflitto. Ma De Masi, sociologo, dice: bah, vabbè, comunque, vi sentite felici? Bene. Più del 2011, pensateci un po', poi andate a lavorare, mi raccomando. Allora, come abbiamo sentito, in Emilia-Romagna potranno entrare all'asilo nido solamente i bambini vaccinati. Io applaudo questa decisione della regione, la prima a reintrodurre per legge il vincolo iscrizioni prevenzione. Il Corriere dice sia la linea dura oppure la linea giusta, correggo io. Non vogliamo rivedere malattie scomparse, medici e famiglie sono d'accordo. Questa è la posizione della regione, come abbiamo sentito anche nel giornale radio. No vaccino, no nido, questa è l'idea dell'Emilia Romagna, che per prima reintroduce senza tentennamenti, racconta il Corriere della Sera, l'obbligo di proteggere i bambini all'inizio del percorso educativo. Tra l'altro, su questo oggi si esercita in maniera, secondo me, efficace Michele Serra nella sua amaca. Allora, a questa decisione si sono opposti in Regione Emilia-Romagna quelli del Movimento 5 Stelle e si chiede, Michele Serra nella sua amaca a pagina 28 di Repubblica, perché i 5 Stelle votano contro l'obbligatorietà delle vaccinazioni? La domanda non vuole essere polemica, semmai soccorritrice, perché un conto è la radicalità in campo economico-sociale, quella è giustificata e anche utile in tempi di pensiero unico, ma contro i vaccini perché? Perché la casta della sanità specula sulle vaccinazioni, come sostiene qualche ammalato di sospettite, e come ebbe a dire Grillo sciaguratamente a proposito delle mammografie che salvano molte migliaia di vite? Perché tutto quello che odora di stravaganza scientifica, perché tutto ciò che odora di eterodossia prescindere piace da matti a qualche frequentatore del web che ama spiegare al sarto come si fa un vestito, allo slalomista come si scia, al fantino come si cavalca? Facciamo un'ipotesi che a partire dal reddito di cittadinanza, dall'antieuropeismo, dai curiosi criteri di selezione del suo personale politico, quel movimento riesca a convincermi della bontà delle sue proposte e delle sue qualità di governo, magari mettendo a tacere i non pochi fascistoni che sostano in quei paraggi, magari scusandosi per l'alleanza tecnica col partito troglo nazionalista di Farage. Poi però salta su il mattoide che ripudia le vaccinazioni come odiosa speculazione dei poteri forti. E basta quell'unico mattoide, ve lo assicuro, a distruggere l'intero castello della credibilità. Chissà se si rendono conto che hanno un problema. E questo è Michele Serra che su Repubblica pone la questione 5 Stelle vaccini, mettiamola così. Tra l'altro, nel giorno in cui il Giorno fa sapere che è in grave in Toscana un'altra persona, in questo caso una bambina, 8 anni per meningite, è un bambino per la verità, piccolo ricoverato al Meyer di Firenze dopo i decessi di due donne per meningite. Altro caso dunque, nuovo di meningite in Toscana, un bimbo di 8 anni ricoverato a Firenze e stando ai primi accertamenti ha contratto la meningite di tipo C, si trova in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Vaccinato nel 2009, era fuori copertura, poiché l'effetto del siero dura 5 anni. Questo racconta il Giorno. Va bene, invece mi ha colpito molto questa ricerca, questa notizia scientifica che ho trovato su Repubblica, pagina 19, è un primo esperimento, il titolo è questo, così cancelliamo i ricordi più brutti. È una vicenda che riguarda la ricerca britannica che di ricercatori che hanno pubblicato questo studio, il termine esatto è neurohacking. Ricercatori britannici che individuano e riscrivono le aree del cervello associate a esperienze negative. I ricordi hanno una forma, racconta Elena Dusi su Repubblica. Un computer oggi è in grado di riconoscerla e cancellarla. Il primo esperimento è stato fatto ovviamente a fin di bene, per eliminare un ricordo traumatico, superare una paura. Ma il termine neurohacking, usato dalla stessa rivista che ha pubblicato lo studio, la dice lunga sulle potenzialità di questo metodo, che consiste proprio nel riscrivere un ricordo, trasformandolo da negativo in positivo, senza che l'individuo se ne accorga. Nei laboratori in passato la memoria umana era stata manipolata in vari modi, con l'inserimento di ricordi artificiali, con farmaci che bloccano la formazione delle connessioni tra neuroni, testati da anni sui veterani di guerra, ma per la prima volta oggi all'Università di Cambridge, in Gran Bretagna, un ricordo viene cancellato senza che il soggetto dell'esperimento ne sia conscio. Beh, è un fronte molto, molto ampio, siamo alle prime sperimentazioni, ma Repubblica racconta tutto ciò a pagina 19 e mi sembra interessante sottolinearlo per voi. Ma eccoci all'articolo che mi fa pensare della giornata. È un'intervista, in realtà, un'intervista in cui il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, fa delle ammissioni. A Bologna c'è una grande diatriba sul fatto che la procura vuole contestare l'aggravante di spaccio vicino alle scuole, alle università, agli spacciatori, e i GIP in genere non riconoscono questa aggravante. E il procuratore Amato in pratica cerca di spiegare, dice: sì, è vero, la nostra linea è di applicare agli spacciatori l'aggravante delle vicinanze alle scuole, alle comunità giovanili. Ho fatto una direttiva al riguardo. Ma il GIP respingono tutto ciò. Ma è tutto ciò è fisiologico, è giusto che sia così. Il nostro sistema è basato su pesi e contrappesi, ma la gente non capisce. Lo stesso procuratore ammette: e io capisco la gente, ma questo è fisiologico funzionamento del nostro sistema. Ogni giudice è libero di dare l'interpretazione che ritiene. Il vero problema sono le leggi, troppe, spesso non chiare, di difficile interpretazione, così possono esserci letture diverse. Insomma, il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, ammette: ci sono troppe leggi, sono in contrasto tra loro, manca un giudizio certo. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessà. A me è uno che si chiama Milan, che ti ha la parola tutti i giorni, a me azza, ma parla proprio una barzelletta. Ciao, Montalbano Brindisi. Oh, grande, grande. Allora, grandi nostri ascoltatori, il referendum, tanti articoli, tante polemiche, tanti insulti. Ieri siamo arrivati allo scrofa ferita di Grillo a Renzi. La polemica più sentita oggi sui giornali è quella del voto all'estero. Il no, ricorso se il voto estero è decisivo. Questo è il titolo che troverete più gettonato. Ovviamente i giornali raccontano delle buste, le copie, i corrieri, quelle preferenze sempre sospette. Fa un resoconto, per esempio, Francesco Grignetti a pagina 3 di La Stampa, dei 10 anni del voto degli italiani all'estero, e si scopre dopo 10 anni che non è esattamente un modello di trasparenza. Io, per carità, non voglio lanciarmi in giudizi, però sono veramente stupito di come in Italia abbiamo un livello di autoconsiderazione misera, infima, sotto lo zero. Tante volte probabilmente abbiamo anche ragione. Cioè, per esempio, mi ha colpito l'intervista che Silvia Truzzi fa a Alessandro Pace. Alessandro Pace, avvocato costituzionalista, è il presidente del Comitato per il No. Trovate l'intervista sul Fatto Quotidiano. Ecco il motivo per cui Alessandro Pace contesta il voto all'estero. Il presupposto è l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, che dice: il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il voto all'estero, invece, dice Pace, avviene per corrispondenza. Ma come può questo metodo assicurare che il voto espresso non sia il risultato di pressione all'interno o all'esterno nell'ambito familiare? La segretezza è garanzia della libertà del voto. E qui subito ho avuto un sussulto a dire: ma allora dobbiamo destituire Trump? Dobbiamo destituire qualsiasi presidente americano eletto con milioni e milioni o centinaia di migliaia di voti all'estero, normalmente, senza che nessuno faccia polemiche. E mi si dice, quando l'ho detto anche alle 6:30, ma in Italia noi manipoliamo, ma se il problema siamo noi italiani, allora diciamolo. Non è il voto all'estero, siamo noi italiani. Ah, vabbè, allora è un'altra cosa. Siamo dei truffatori. Non lo so, diciamolo così. Ma dire che il voto all'estero non è garantito perché si vota per posta, allora in America è un presidente illegittimo. Dovremmo pensare la stessa cosa, eletto con centinaia di migliaia di voti all'estero. Dice ancora Pace, quando noi votiamo in Italia andiamo al seggio, presentiamo il documento di identità, il certificato elettorale e poi esercitiamo il nostro diritto. I cittadini italiani che risiedono all'estero invece ricevono una bustona che contiene la scheda, una bustina, insomma spiega tutto il meccanismo e dice ora il voto dove viene espresso a casa o in un ritrovo insieme con amici e cioè in luoghi in cui la segretezza non può essere garantita. Ripeto, anche per gli americani. Vabbè. Comunque il voto all'estero è il tema del giorno, anche perché si annuncia possibili ricorsi nel caso di sia decisivo. Ci sono proprio annunci di ricorsi. L'altra notizia, forse anche questo per dire, ma come le cose mi stupiscono un po'. Berlusconi è andato a porta e ha detto che voterà no. Per la verità lo ha detto il Foglio, infatti lo fa notare in maniera un po' maliziosa. Prima risposta alla prima domanda, perché Berlusconi decide di votare no? Risposta di Berlusconi, sa che me lo domando anch'io. Questa è stata la prima risposta, sa che me lo domando anch'io. Questa è stata la prima risposta di Berlusconi, che poi ha argomentato. E però alla domanda, ma scusi, allora perché Confalonieri, e dunque Mediaset, presidente di Mediaset, vota sì? Berlusconi ha detto Mediaset vota sì per timore di ritorsioni. Beh, anche questa è straordinaria. Cioè Silvio Berlusconi in pratica ha accusato Matteo Renzi di un conflitto di interessi. E infatti Francesco Verderami nel suo retroscena a pagina 6 del Corriere della Sera scrive: in un sol colpo Berlusconi si spoglia del conflitto di interessi e lo rovescia su Renzi. In un sol colpo, da uomo di potere, si mostra nudo davanti al potere. In un sol colpo si offre all'opinione pubblica come paladino indifeso del no e della democrazia e addita il governo come forza di sistema che costringe gli uomini delle sue aziende a schierarsi col sì per paura di possibili ritorsioni verso le sue televisioni. Il messaggio ha fatto effetto nel palazzo, forse può far pesa sull'elettorato, che ormai è trasversalmente allergico al potere, se non fosse che il Cavaliere ha finito indirettamente per colpire anche il presidente di Mediaset, come se l'opinione di Confalonieri sul referendum fosse stata coartata, come se la sua famosa battuta sul fa fino a oggi dire io voto no fosse stata dettata dalla paura. In realtà il rapporto tra Berlusconi e Confalonieri è più complesso. Il sale della nostra amicizia, come ama spesso dire Confalonieri, sta nel fatto che non sempre la pensiamo allo stesso modo. Però certo, questa è la retroscena di Francesco Verderami che poi continua sul Corriere della Sera. Il tema è che Berlusconi, Silvio Berlusconi, di fatto ha accusato in maniera dura Renzi di essere un potenziale portatore di conflitti di interessi. Mediaset votano sì per paura di ritorsioni del governo. Va bene, in tutto c'è la polemica, non c'è giorno senza polemica su Vincenzo De Luca. L'ultima era questa, il tentativo, poi pare accantonato per il momento, di fare un emendamento alla manovra. L'emendamento era di una deputata del Partito Democratico per dare la possibilità al presidente della Regione Campania di diventare anche commissario della sanità in Campania. Accantonata pare per il momento questa ipotesi, ma l'accusa era: ma come, danno a De Luca anche la sanità? Lui, De Luca, si presenta con un sarcasmo ieri dicendo: i commissari regionali della sanità qui sono due teste di sedano. Grillo è un grillo bollito e stanco, in cucina cinese lo chiameremmo grillo fritto, e così avanti. E poi, ma lei punta alla salute, alla sanità, più che altro aspiro alla salute più che alla sanità. altro giorno di polemica su De Luca, per il quale il Movimento 5 Stelle presenta un'accusa di voto di scambio. Il caso della sanità campana De Luca, l'ira 5 Stelle, voto di scambio. E Ale, meno male che a rasserenarci ora c'è il buon, come dire, tranquillizzatore, il camomillatore Mauro Meazza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Devo dire che con tutte queste premesse ho sentito questo dibattito politico così alto. Pinguino. C'è parecchio lavoro da fare. Sì. Quante poi ore, sempre gli animali. Quando si arriva in campagna elettorale tirano sempre gli animali. Scrofa, pinguino. Sempre presente. Pinguino. Pinguino, va bene. Volevo dirti, oggi è mercoledì, sì. Alessandro, giusto? Sì. Però parliamo di condominio. Molto bene. Oh, perché parliamo di condominio? Perché insieme al Sole 24 Ore c'è un fascicolo di non una ma 64 pagine proprio dedicate al condominio, quindi prima di andare a litigare in assemblea dai una scorsa a queste pagine, magari leggile, non so se avidamente o religiosamente come preferisci, però te lo consiglio, leggile per la tranquillità della vita condominiale, almeno magari in quella sede evitiamo i toni sentiti della politica. O poi ti consiglio per la tua meditazione odierna, sì. Ho un doppio consiglio. Il primo riguarda la nostra pagina numero 2 di oggi, che è tutta dedicata alle tensioni sul petrolio, perché proprio a fine novembre ci sarà questo vertice OPEC e l'andamento del petrolio è molto importante per l'economia. Perché? E leggi la pagina 2, ti posso spiegare tutto in 10 secondi. Il secondo spunto di meditazione è l'editoriale di Paolo Bricco sulla decisione di Trump di dare un taglio netto al NAFTA, per adesso il TTP ma poi il NAFTA, cioè l'area di libero scambio del Nord America. Ma noi che ci interessa? Se leggi Bricco capisci che è un problemino grosso anche per noi europei e per noi italiani, ma sono i due spunti di meditazione. E invece, scusami, qui Radio Fisco, purtroppo è caduto nel nulla l'emendamento che doveva rimediare al doppio binario causato dal decreto legislativo 139. Tu non hai capito, Alessandro, ma loro sì. Ma chi doveva capire ha capito, e anzi, secondo me, seppure un po' scocciato, e potresti metterlo nella notizia mani sul volante. Tutti i particolari in norme e tributi nella prima pagina, vedremo se questo emendamento che deve rimediare a un problema di impatto di novità contabili molto importante verrà recuperato, lo si aspettava in manovra. Poi ti segnalo che la Commissione Europea è pronta a varare un nuovo pacchetto di misure sui bilanci bancari e ne parla diffusamente con noi il commissario Dombrovskis, ne riferiamo appunto nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Infine, io te lo dico così, poi non so se tu hai i tuoi due rini lì oppure da un'altra parte, guarda che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Panama. Quindi Alino avvisato e non ti voglio dire altro. Euro salvato. Traffico! Alessandro Milan, il motore a l'informazione. Marche profonde. Profonde, bello, ci piace così. Allora, Gabriele da Varese mi scrive che in Svizzera votano per posta da anni elezioni e referendum senza alcun problema. Ma si dirà, sono svizzeri, caro Gabriele. Mentre ci scrive da Stoccolma, l'ascoltatore da Stoccolma, abito a Stoccolma, ho appena votato da casa, ho spedito la busta dal supermercato sotto casa, comodissimo, nessuna pressione tranne la cassiera che mi premeva per fare presto. Va bene, il nostro ascoltatore da Stoccolma, il voto all'estero. Vabbè. Attenzione, non siamo in grado di fare le cose, diciamolo francamente, e autofalliamo. Invece, giusto per arrivare all'America, visto che l'ho citata, Donald Trump è andato nella tana del lupo, è andato alla sede del New York Times, quel giornale che lo ha criticato per tutta la campagna elettorale, dopo aver detto annullo l'incontro, no lo faccio, no lo annullo, no lo faccio, è andato e ha fatto il primo colloquio con i giornalisti, ha raccontato un po' quello che farà nei primi 100 giorni, ha usato il montacarichi per evitare la folla che lo attendeva e si è confrontato, e oggi sui giornali c'è un po' tutto il sunto di questa intervista. al New York Times, giornale che dice Donald Trump, purtroppo lo leggo e vivrei 20 anni di più se non lo facessi. Questo è stato il suo esordio. Però ha detto che su Hillary Clinton, per esempio, non ci sarà alcun processo per la questione delle mail. Non è una cosa a cui tengo in modo particolare, ha detto Trump, non voglio ferire i Clinton, davvero, lei ha già sofferto abbastanza e in molti modi. Aveva detto invece la manderò in prigione una volta che sarò presidente. Però è interessante soprattutto dal punto di vista dell'economia capire cosa farà Trump. Allora oggi Federico Rampini su Repubblica racconta Trump contro la globalizzazione. Gli anti-global hanno vinto e ora... Con Donald Trump alla Casa Bianca, Theresa May a Downing Street, magari a maggio François Fillon all'Eliseo, dunque in Francia, alcune tra le maggiori potenze occidentali sono in mano a leader che hanno promesso una vigorosa marcia indietro rispetto alla globalizzazione, insomma una rinazionalizzazione delle politiche economiche. Quali conseguenze? Intanto lo stop al TPP, il trattato con 11 nazioni dell'Asia Pacifico, che era arrivato a un passo dalla ratifica. E invece Trump lo bloccherà probabilmente. Poi Trump non parla dell'altro accordo di libero scambio, il TTIP con l'Europa, ma è realistico pensare che sia finito su un binario morto. Poi c'è il tema dell'immigrazione, altro tema contro la globalizzazione. Sul piano dell'immagine però Trump incassa già un successo. La Ford annuncia che manterrà la produzione di un modello SUV a Louisville in Kentucky, rinunciando a delocalizzarlo in Messico. Comunque interessante questa analisi di Federico Rampini, la trovate a pagina 6 e 7 di Repubblica. Che cosa farà Trump? Ecco, anche per la stampa accende la sfida via i commerci con l'Asia. Torniamo in Italia, però devo segnalare la performance che ha suscitato polemiche del capogruppo della regione Lombardia della Lega, Massimiliano Romeo, che ha detto ieri nella discussione per una legge sulla parità di genere in regione basta col politicamente corretto. Le donne guadagnano meno degli uomini perché preferiscono restare a casa con i figli e con la famiglia e non accettano di fare gli straordinari come gli uomini. Apriti cielo, anche donne del suo stesso partito, tipo la leghista Martinazzoli, si è alzata in piedi a dire tirare su figli non è come allevare capretti, e quindi si è aperto il dibattito. Oggi Libero scende in campo in favore del leghista Romeo a dire la verità è che vorremmo farla finita con le donne che difendono le donne perché sono donne, con gli uomini che difendono le donne solo per non farle incazzare. Così racconta Simona Bertuzzi, che dice quando le agenzie di stampa hanno battuto la notizia Lega shock in regione Lombardia, abbiamo temuto che fosse venuto giù il governo Maroni, invece era solo il capogruppo leghista Romeo che nella foga di dimostrare la parità dei sessi e rendere merito al lavoro femminile aveva sentenziato che è ora di finirla con le chiacchiere, gli uomini hanno stipendi più alti perché fanno gli straordinari e le donne preferiscono stare a casa con i figli. L'aula si è destata. E così il resoconto della seduta movimentata. Non è sempre uno scandalo se lei guadagna meno, questo è il titolo dell'articolo di Libero. In ogni caso, eccolo qua, chissà, vabbè. Intanto signori, sempre su Libero, sappiate care suocere che dare della vipera a una suocera non è reato. Lo ha sentenziato la Cassazione. Peter Mescapè mi guarda, Lorenzo Nespoli mi guarda. Perché mi guardate? Siete suocere? No. Va bene, se la suocera è vipera si può insultare. Mattias Mainiero, lo ha deciso la Cassazione. Non è un insulto, non è diffamazione. Anche la suocera che va a denunciare il genero. Vabbè. La carta costa, oggi l'articolo più inutile sui giornali va a un articolo di Goffredo De Marchis che ci vuole raccontare come voteranno per il referendum tutti gli eroi del Mondiale 82. E Dino Zoff come voterà? E Fulvio Collovati come voterà? E Antonio Cabrini? E Ciccio Graziani? E Bergomi? E Gentile? E Conti? E Zico? No, Zico no! E Falcao? No, Falcao non vota! E Tardelli? Tardelli come voterà Tardelli? Ma chi se ne frega!